Un segno che il discepolo dell'occultismo ha raggiunto il gradino di evoluzione descritto nel capitolo precedente o che sta per raggiungerlo consiste nella trasformazione che si attua nella sua vita onirica. I sogni prima erano confusi e arbitrari, ora cominciano ad assumere un carattere regolare. Le loro immagini cominciano ad avere un nesso e un senso al pari dei pensieri della vita quotidiana. Si riconoscono in essi legge, causa ed effetto. Anche il contenuto dei sogni si modifica. Mentre prima vi si percepivano solo ripercussioni della vita quotidiana, impressioni trasformate dell'ambiente o dello stato del proprio corpo, ora le immagini che sorgono provengono da un mondo prima sconosciuto. All'inizio permane senz'altro il carattere generale della vita di sogno, poiché il sogno si differenzia dai pensieri della veglia in quanto manifesta simbolicamente ciò che vuole esprimere. A chi studia con attenzione la vita di sogno, il simbolismo non può passare inosservato. Si sogna, per esempio, di aver catturato una brutta bestia e di avere una sensazione sgradevole nella mano. Ci si sveglia e ci si avvede di stringere nella mano un lembo della coperta del letto. La percezione non si esprime dunque direttamente, ma attraverso l'immagine simbolica descritta. Oppure si sogna di fuggire da qualcuno che ci insegue e di aver paura. Svegliandoci, ci accorgiamo che durante il sonno siamo stati colti da palpitazioni cardiache. Lo stomaco, carico di cibi indigesti, determina nel sogno immagini spaventose. Anche fatti che si svolgono vicino al dormiente si riflettono simbolicamente nel sogno. Il ticchettio di un orologio può provocare l'immagine di soldati che sfilano a suon di tamburo. La caduta di una sedia può dare origine nel sogno a un intero dramma, in cui il rumore della caduta si trasforma in una fucilata e così via. Questo modo allegorico di esprimersi è proprio anche del sogno regolato di un discepolo, il cui corpo eterico comincia ad evolversi. Però esso non rispecchia più semplici fatti dell'ambiente fisico o del proprio corpo sensibile. Come i sogni che devono la loro origine a queste cose diventano regolari, così vi si frammischiano anche immagini che sono espressioni di cose e di condizioni di un altro mondo. Anzitutto vengono fatte esperienze inaccessibili alla coscienza ordinaria diurna. Non bisogna però affatto credere che un vero mistico metta alla base di ogni comunicazione significativa sul mondo superiore le sue esperienze di sogno. Queste esperienze nel sogno vanno considerate soltanto come i primi indizi di un'evoluzione superiore. Presto, come ulteriore conseguenza, interviene il fatto che le immagini sognate dal discepolo non sfuggono più come prima alla direzione dell'intelligenza assennata, ma possono essere da questa dirette e ordinatamente osservate, come i pensieri e i sentimenti della coscienza di veglia. Scompare sempre più la differenza fra la coscienza di sogno e lo stato di veglia. Chi sogna, nel pieno senso della parola, è sveglio durante la sua vita di sogno, vale a dire si sente padrone e guida dei suoi pensieri figurati. Durante il sogno, l'uomo si trova in effetti in un mondo diverso da quello dei suoi sensi fisici. Se i suoi organi spirituali non sono sviluppati, di quel mondo può farsi soltanto le idee confuse sopra descritte. Quel mondo esiste per lui come il mondo sensibile potrebbe esistere per un essere dotato soltanto dei primissimi rudimenti degli occhi. Per questo non può vedere in quel mondo altro che riverberi e riflessi della vita ordinaria. Li può vedere nel sogno perché la sua anima imprime le proprie percezioni diurne, sotto forma di immagini, nelle sostanze di cui quell'altro mondo è costituito. Bisogna cioè rendersi chiaramente conto che l'uomo, oltre alla sua abituale vita diurna cosciente, ne svolge una seconda, inconscia, nel mondo cui ora si è accennato. Tutto ciò che percepisce e pensa viene da lui impresso in quel mondo. Si possono vedere quelle impressioni soltanto quando i fiori di loto sono sviluppati. In ognuno si trovano però sempre in germe determinati rudimenti dei fiori di loto. Durante la coscienza diurna nulla se ne può percepire perché le impressioni che ne riceve sono debolissime. Per una ragione analoga, durante il giorno non si vedono le stelle. Di fronte alla possente forza della luce solare, esse non risaltano alla percezione. Così le deboli impressioni spirituali non arrivano a farsi sentire di fronte alle potenti impressioni dei sensi fisici. Quando poi, nel sonno, le porte dei sensi usuali sono chiuse, quelle impressioni emergono in modo confuso e chi sogna percepisce allora esperienze che vengono fatte in un altro mondo. Come è stato detto, all'inizio quelle esperienze null'altro sono se non ciò che è stato impresso nel mondo spirituale dai pensieri figurati collegati ai sensi fisici. Solo i fiori di loto sviluppati danno la possibilità alle manifestazioni non appartenenti al mondo fisico di imprimersi in quello spirituale. Allora, grazie al corpo eterico sviluppato, sorge la completa conoscenza di quelle impressioni provenienti da altri mondi. Così iniziano le relazioni del discepolo con un mondo nuovo. Con le istruzioni della scuola occulta, egli deve tendere ad un duplice scopo. Anzitutto deve acquisire la possibilità di fare le osservazioni durante il sogno in modo altrettanto completo come se fosse in stato di veglia. Quando vi è riuscito, dovrà fare le medesime osservazioni anche durante l'ordinario stato di veglia. La sua attenzione per le impressioni spirituali viene diretta in modo che tali impressioni non svaniscano più di fronte a quelle fisiche, ma possano sempre rimanere al lato e assieme alle altre. Quando il discepolo ha acquisito questa capacità, sorge dinanzi ai suoi occhi spirituali qualcosa del quadro che è stato descritto nel capitolo precedente. Egli ora può percepire ciò che nel mondo spirituale esiste quale causa di quello fisico. Può soprattutto riconoscere in quel mondo il proprio sé superiore. Il suo prossimo compito è ora quello di elevarsi e in un certo qual modo di penetrare nel suo sé superiore, cioè di considerarlo realmente come la sua vera entità e di comportarsi di conseguenza. Si compenetra sempre più dell'idea e del vivo sentimento che il suo corpo fisico e ciò che prima chiamava il suo io è soltanto uno strumento dell'io superiore. Di fronte al sé inferiore sperimenta un sentimento analogo a quello di chi, limitato al mondo sensibile, è di fronte ad uno strumento o a un veicolo di cui si serve. Come questi non considera il veicolo in cui viaggia come il suo io, sebbene dica io viaggio, così come dice io cammino, similmente il discepolo quando dice io passo attraverso quella porta ha in effetti l'idea io conduco il mio corpo attraverso quella porta. Questa idea però deve diventare per lui tanto naturale che in nessun momento egli perda la solida base del mondo fisico, né mai sorga in lui un sentimento di allontanamento dal mondo sensibile. Se il discepolo non vuol diventare un sognatore o un visionario attraverso la sua coscienza superiore, non deve impoverire la sua vita nel mondo fisico, ma arricchirla, così come l'arricchisce Chi, invece di servirsi delle gambe, si serve della ferrovia per fare un viaggio. Quando il discepolo si è elevato ad un simile modo di vita nel suo io superiore, o piuttosto già durante l'acquisto della coscienza superiore, gli risulta evidente di poter destare l'esistenza della forza spirituale di percezione nell'organo che è stato creato nella regione del cuore e di poterla dirigere grazie alle correnti descritte nel capitolo precedente. Tale forza è un elemento di sostanzialità superiore che emana dall'organo citato e, risplendente di bellezza, scorre attraverso i fiori di loto in movimento, anche attraverso gli altri canali del corpo eterico evoluto. Da lì essa irradia verso l'esterno nel mondo spirituale circostante e lo rende spiritualmente visibile, così come la luce solare, che dall'esterno si posa sugli oggetti, li rende fisicamente visibili. Con questa forza di percezione, venga creata nell'organo del cuore, può essere compreso soltanto gradatamente durante il corso dello sviluppo stesso. In realtà, il mondo spirituale diventa chiaramente percettibile con i suoi oggetti e i suoi esseri soltanto a chi sia capace di proiettare in tal modo, attraverso il suo corpo eterico e verso il mondo esterno, l'organo di percezione caratterizzato, illuminando così gli oggetti. Da ciò si vede che la coscienza completa di un oggetto del mondo spirituale è subordinata alla condizione che il discepolo proietti su di esso la luce spirituale. In realtà l'io, che crea questo organo di percezione, non vive affatto nel corpo fisico umano, ma, come è stato mostrato, al di fuori di esso. L'organo del cuore è soltanto il luogo in cui il discepolo accende dal di fuori l'organo spirituale di luce. Se invece che nei pressi del cuore lo accendesse altrove, le percezioni spirituali da esso prodotte non avrebbero alcun nesso col mondo fisico. Egli deve però riferire appunto ogni spiritualità superiore al mondo fisico e farla agire su quest'ultimo attraverso di sé. L'organo del cuore è appunto quello attraverso il quale l'io superiore si serve del sé sensibile come di uno strumento e per mezzo di cui lo dirige. Il sentimento che il discepolo ha ora di fronte alle cose del mondo spirituale è diverso da quello che di fronte al mondo fisico è proprio dell'uomo dei sensi. Questi si sente in un dato punto del mondo sensibile e gli oggetti che percepisce gli appaiono fuori. L'uomo spiritualmente evoluto si sente invece come unito con gli oggetti spirituali della sua percezione. Vi si sente come dentro. Si aggira in effetti nello spazio spirituale da un posto all'altro. Per questo nel linguaggio della scienza occulta viene anche chiamato il viandante. In nessun luogo è a casa propria. Se si fermasse allo stadio del viandante, non potrebbe veramente individuare nessun oggetto nello spazio spirituale. Come nello spazio fisico si determina un oggetto o una località muovendo da un determinato punto, così si deve anche fare nel raggiunto mondo spirituale. Anche in questo il discepolo deve cercarsi un posto, investigarlo con cura e prenderne possesso spiritualmente. In esso deve fondare la sua patria spirituale e tutto metterle in relazione. Anche chi vive nel mondo fisico vede tutto condizionato dalle rappresentazioni della sua patria fisica. Involontariamente un berlinese descriverà Londra in modo diverso da un parigino. Pure vi è una differenza fra la patria spirituale e quella fisica. In quest'ultima si nasce senza la propria partecipazione. Durante l'infanzia si accoglie per istinto una serie di concetti dai quali da allora in poi tutto sarà involontariamente illuminato. La patria spirituale viene invece formata in piena coscienza. Muovendo da essa si giudica perciò in piena e luminosa libertà. Formarsi una patria spirituale, si dice nel linguaggio della scienza occulta, è edificarsi una capanna. A questo stadio, la veggenza spirituale si estende anzitutto alle controimmagini spirituali del mondo fisico, in quanto esse esistano nel cosiddetto mondo astrale. In quel mondo risiede tutto ciò che per sua natura è affine a istinti, sentimenti, passioni e desideri umani, perché tutte le cose sensibili attorno all'uomo hanno anche forze che sono affini a quelle umane. Per esempio, un cristallo riceve la sua forma da forze che alla visione superiore si palesano simili ad un istinto che agisce nell'uomo. Forze analoghe fanno circolare il succo nei vasi linfatici della pianta, sbocciare i fiori, germogliare i semi. Tutte queste forze assumono forma e colore per gli organi sviluppati della percezione spirituale, così come gli oggetti del mondo fisico hanno forma e colore per l'occhio fisico. Al gradino descritto della sua evoluzione, il discepolo dell'occultismo non vede soltanto il cristallo o la pianta, ma anche le dette forze spirituali. Vede gli impulsi degli animali e degli uomini non soltanto nelle loro manifestazioni fisiche, ma anche direttamente, sotto forma di oggetti, come nel mondo fisico vede tavole e sedie. L'intero mondo di istinti, impulsi, desideri e passioni di un animale o di un uomo diventa l'aura, la nube astrale in cui esso è sviluppato. A questo gradino della sua evoluzione, il chiaroveggente percepisce inoltre cose che sfuggono quasi o completamente alla comprensione sensibile. Per esempio, può osservare la diversità astrale fra un ambiente che sia per la maggior parte riempito da uomini di mentalità bassa ed uno in cui si trovino raccolte persone di mentalità elevata. In un ospedale, non soltanto l'atmosfera fisica, ma anche la spirituale è diversa da quella di una sala da ballo. Una città mercantile ha un'area astrale diversa da quella di un centro universitario. All'inizio, la facoltà percettiva di chi è divenuto chiaroveggente è soltanto debolmente sviluppata per queste cose. Nei loro riguardi, essa si comporterà come la coscienza di sogno dell'uomo usuale rispetto alla sua coscienza di veglia. A poco anch'egli si desta pienamente a questo livello. La conquista più alta del chiaroveggente, arrivato al grado caratterizzato di veggenza, è che diventano per lui visibili le reazioni astrali delle passioni e degli impulsi animali ed umani. Un'azione amorevole è accompagnata da una forma astrale diversa da quella che deriva dall'odio. Un desiderio insensato oltre a se stesso determina anche una brutta controimmagine astrale, mentre un sentimento elevato ne produce una bella. Durante la vita fisica umana queste controimmagini sono soltanto debolmente visibili, perché la vita nel mondo fisico ne limita la forza. Il desiderio di un oggetto crea, per esempio, una tale immagine riflessa, all'infuori di quella con cui quello stesso desiderio si manifesta nel mondo astrale. Se però il desiderio viene appagato dall'acquisizione dell'oggetto, o perlomeno vi è la possibilità di tale acquisizione, la controimmagine sarà soltanto debolissima. Si presenterà nel suo pieno valore soltanto dopo la morte, quando l'anima, per sua natura, deve tenersi quel desiderio, ma non lo può più appagare, perché le mancano tanto l'organo fisico quanto l'oggetto stesso. L'uomo, disposto ai piaceri dei sensi anche dopo la morte, avrà per esempio il desiderio dei godimenti della gola. Ora gli manca però la possibilità di soddisfarlo, poiché non ha più palato. Ne consegue che il desiderio genera una controimmagine astrale molto violenta, da cui l'anima viene tormentata. Queste esperienze, prodotte dopo la morte dalle controimmagini della natura animica inferiore, si chiamano le esperienze nel regno delle anime, più particolarmente nella regione delle brame. Esse spariscono soltanto quando l'anima si è purificata da tutti i desideri volti al mondo fisico. Allora soltanto l'anima ascende alla regione superiore o mondo dello spirito. Per quanto queste controimmagini possano essere deboli nell'uomo fisico vivente, pure esse esistono e l'accompagnano quale sua disposizione a desideri, come la cometa è accompagnata dalla sua coda. Il chiaroveggente può vederle quando è giunto al gradino di evoluzione adeguato. In tali esperienze e in tutte quelle affini, il discepolo vive durante lo stadio che è stato descritto. A questo gradino della sua evoluzione non può giungere ad esperienze spirituali ancora più elevate. Occorre che da quello stadio ascenda ancora più in alto.